doppia spira, sono circa 30 spire, e le devi avvolgere con un filo, devi seguire un percorso, dai, a spiegare così è un po' complicato, però c'è una resa molto, diciamo, intorno al 10%, in certi casi anche al 20%, sia come consumo e come cuffia, il motore riesce ad andare meglio. Io ho l'altro motore, l'altro cambio, quasi una marcia lì che ci ho guadagnato, non so cosa vuol dire guadagnare una marcia, dove ci salivi in terza, adesso ci sali in quarta, adesso vabbè, ho messo il cambio nuovo, 5 marce, quello c'aveva l'overdrive, era un sistema diverso, molto scomodo, eccetera, infatti non lo ducavo mai, lo lasciavo fisso, mi ha fatto, ma proprio visibile, i risultati visibili sono stati, gira meglio il motore, tutto quanto, consuma di meno e c'ha più cuffia. Non ci credeva un carissimo amico, poverino buonanima, un meccanico di vecchio stampo, queste cose io qua là, ho detto provi a farlo, lo provi signor Gigi, gli ho detto. Lo sai che mi ha dato, l'ha detto, complimenti, è una cosa che funziona, a me questo sistema me l'aveva detto un professore universitario, che lui aveva messo una macchina, ma cosa cazzo di macchina era, un'onda vecchia, aveva fatto più di 300.000 km, quando me l'ha fatto vedere, detto, cos'è questa cosa? Tu cerca su internet bobina di Mac, di Tesla, l'ha fatta Nikola Tesla questa cosa, e tu dici, ah, cos'è? Quando tu lo vedi facendo, però devi saperlo fare, non è semplice se tu non sei pratico, perché mio fratello si è messo a farlo e andava a giù di prima la macchina. Tu e a te chi te l'ha fatto? Io me lo sono fatto, naturalmente seguendo gli schemi, perché tu questa specie di bobina che la metti nel tubo di missione carburante, io addirittura ne ho messo due, ne ho messo una vicino al serbatoio e un'altra vicino all'ingresso, diciamo, dove c'è la testata, dove gli dai carburante, ne ho messo 15 più 15, se no si può fare anche con 30, nella multipla l'ho fatta con 30, ma la multipla, se ti dico quanti chilometri fa, tu ti spaventi, e la fumosità ti riduce, non parliamo delle macchine a gas, le macchine a gas guadagni 20% sicuro, ho visto le prove al laboratorio, non fate così a orecchio, 20, c'era la multipla Blue Power, quella con l'impianto a gas, che picchiava un po' in testa perché c'erano difetti, e ha messo questa roba, ha eliminato il problema e ha guadagnato il 20% di coppia e di consumo, ha ridotto il consumo del 20%. Interessante questa cosa, interessante. Se tu c'hai tempo, cercati bobina di Mac, vedi su YouTube ci sono dei funzionamenti, ma tu lo puoi fare questo qua, oltre che per il carburante, lo puoi fare anche la doccia di casa tua, per dire, e quando ti fai la doccia, tu vedi, lo puoi fare, gli fai questa bobinetta, però naturalmente seguita una logica, perché deve andare il senso di questa bobina, di questo avvolgimento, deve essere verso il flusso di erogazione, perché se la fai al contrario è peggio della situazione. E tu fai la prova così, col gas di casa, tu nella cucina, prendi due cucine identiche, avevo visto, c'è il video, identiche, della Bosch erano tutti e due piani cottura, attaccate con la bombola, alimentate con la stessa bombola e tutto quanto, e uno gli hanno messo nel tubo del gas questa bobinetta fatta, e tu devi vedere la fiamma tutta completamente, perché gli elettroni, le particelle atomiche sia dell'acqua, del gas, del carburante, te le indirizza tutte in una stessa, è come che c'è un campo magnetico, in parole povere, funziona per induzione elettromagnetica questa roba, e ti indirizza tutte le particelle ordinate anziché sparpagliate, e tu te ne accorgi, per dire, se ti fai, lo metti nel coso della doccia, nel soffione della doccia, quando metti questo coso qua, vedi che tutte le goccioline sono tutte uguali, calibrate, è come che tu le metti in un culino e scendono tutte alla stessa misura. Nella macchina l'hanno fatto questo lavoro, ti ripeto, me l'ha fatto vedere questo professore universitario a livello mondiale, questa è una persona ucraina. E io l'ho vista, cos'è questa cosa? Poi l'ho messo anche nel coso, nel raffreddamento, oltre che il coso, nel carburante. Allora, cioè, tu devi vedere la pulizia del circuito e tutto. Buono. Non c'è nessuno associato che lo fa questa cosa. Ma guarda, io ne ho parlato con tanti meccanici, non sanno manco che cos'è questa roba qua. Perché poi c'è un sacco di gente che sanno tutto, oh, la cosa, la gaggata qua. Fallo, provalo. Io un giorno te lo faccio vedere come è fatto, perché tanto c'è una macchina mia. E ti posso garantire, gente non ci credeva, quanti chilometri fa la macchina mia, e c'è spaventa, la mia c'ha 324.000 km. E ti spaventi quanti chilometri con un litro fa. Ti ripeto, io la prova spaventosa l'ho notata sul camper. Il camper mi faceva intorno ai 9 km con un litro, è arrivato anche a 11, diciamo media fa 10, ha guadagnato un chilometro e non è poco, quando ne facevi 9 adesso ne fai 10 di chilometri. Poi se lo sai gestire in certe situazioni e arrivi anche a 11. Però la cosa che mi ha impressionato è il guadagno di coppia. Io mettevo in certe salite la terza, con quello mettevo la quarta. Dicevo, cacchio, come mai adesso con quella quarta e prima munivo la terza? E come si chiama questa cosa? Bobina di Bach? Bobina di Bach, tu cerca su YouTube e ci è spiegato proprio a livello fisico, ci sono dei disegni e ci sono le prove e ci sono dei meccanici che l'hanno fatto, dei coso, con del filo elettrico, semplice filo elettrico, però deve essere un pochettino grosso. E tipo, tu ti ricordi quando c'era il periodo per i reumatismi, si mettevano quelli a fare in rame, li hai mai visti dal posto quei braccialetti? Sì, i braccialetti in rame per i reumatismi, sì. Qualcuno funzionava, qualcuno li ha funzionati, io conosco gente che non ne dormiva la notte per i dolori, ma dolori furti, di artrosi e cose del genere, e con la piattina questo lavorava all'ene, dice come mi sono messo questo, io sono rinato, perché la notte dice c'avevo tutti i dolori, queste artriti. Poi ci sono delle persone che magari al fisico non gli fa niente, per questo lavorava all'ene, aveva preso il rame e l'aveva appiattito, si è fatto il braccialetto di quello dell'alta tensione, un cavo non so da che spessore era, se l'aveva tutto ribattuto, l'ha fatto piatto e si è fatto il braccialetto e se lo metteva nelle caviglie pure la notte, questa cosa qua. Dice io sono riuscito a dormire, le ginocchia ce l'aveva appena. Però il principio è sempre quello, induzione elettromagnetica, e lo fai con due fili che devono scorrere insieme, cioè doppio filo, è come che c'è un doppio filo, tu che lo fai girare in una direzione e poi chiudi il circuito incrociato, vabbè a voce è difficile da spiegare, però la rotazione, il senso di rotazione di questa bobina, il verso, il capo di rotazione deve andare, per dire, dal serbatoio all'emissione nel motore. Se lo metti al contrario peggiori, no? Anziché migliorare. Io l'ho fatto, ti posso dire, funziona perfetto. Ci vorrebbe, l'ideale è usare cavo quello coperto, cavo come si chiama, invece ricordi, perché ho cavo degli impianti elettrici rigido, grosso, ne metti due, le devi fare preferibilmente due colori diversi in modo che riesci a individuare quale uno e quell'altro, se no, e li fai 28-30 sfide affiancate, e tu ti sto dicendo che funziona alla grande. È un po' di gente che era molto dubitoso, si è ricreduto, soprattutto questo grande meccanico, uno dei più bravi qua a Sassari, che purtroppo è morto questo signore, lui non ci voleva credere, mi ha detto, non ci volevo credere, lui aveva la macchina nuova, acquistata nuova, una Peugeot 307 mi sembra che era, e gli ho detto lo provi per curiosità, e lui ha avuto un grandissimo guadagno di consumo. Ma questa cosa va svolta dove? Nella stanza del basulio, cioè attorno all'uscita del serbatoio, dove? Allora, deve essere il punto più vicino possibile all'emissione del motore. Tu all'emissione del motore c'è l'iniezione dove li metti il carburante. Il problema lo sai cos'è? Che su certe macchine viene male a metterlo. Allora devi mettere due di queste cose. Aspetta, no, stavo dicendo che l'ho messo nel camper due. No, l'ho messo due nella macchina mia. Ne ho messo uno vicino al sopra, perché la multipla c'è poco spazio. Ne ho messo 15 sfide attaccate a dove si mette il carburante. Dove poi si chiama al motore. E un altro vicino al serbatoio che ha raddoppiato la cosa, perché l'ideale è metterne una insieme, cioè una unica, però siccome la multipla era troppo complicato, non c'era lo spazio di farlo, allora ne ho messo 15 più 15, nel campo invece ne sono riuscito a metterne 30, 28 esattamente ne ho messo nel campo, tutto in una volta. Ah, ho capito. Io cercherò su YouTube, vediamo un po' cos'è questa cosa. Se mi fa risparmiare, lo facciamo quando hai tempo di fare questo lavoro. Sì, ti sto dicendo, è molto, non ti costa niente, nel senso è un lavoro che non pregiudica niente, nel senso non devi modificare centraline, fare cose strane, questa è una cosa, il discorso trovare un angolino che venga bene a farlo, perché nella multipla è un problema, perché non c'è spazio, tutto raggruppato, hai visto come la multipla, c'è il motore incastrato dentro, non ti puoi muovere, non c'è, infatti ho avuto difficoltà per quello, e devi fare il modo di girarlo e tirarglielo bene bene. Perché questo avvolgimento lo devi fare col tubo attaccato, non è che lo fai, cioè presente la spirale del microfono dell'MC60, devi fare un lavoro del genere col tubo con due fili affiancati, l'ideale è avere il filo rigido perché riesci a girarlo bene, poi una volta che l'hai bloccato unisci i capi dell'ingresso con l'uscita, però vogliono incrociarti, e poi li sigilli con l'atto vulcanizzante in modo che non si sciolgano, ed è un sistema, ti posso dire, chi non l'ha provato non ci crede, quando lo provi già te ne rendi conto. Sì, da me non verrà proprio bene, perché il motore è incastrato dentro la carrozzeria, però si può vedere, dai. Sì, tanto da qualche parte il tubo deve arrivare, cacchio. L'unico discorso è se c'è la curva troppo stretta, e di lì come nel mio c'è una curva, un gomito che viene male a mettercene 30 di spira, allora ho dovuto mettere 15 lì e 15 sotto, dove passa il tubo del carburante, da sabattura. Non ho capito, ma come abbiamo un attimo di tempo per fare questo lavoro, e niente, poi vediamo, dai. Ah, ti ripeto, un po' di gente, me lo devo fare anche ad altre persone, me l'hanno chiesto di farlo. È un po' cosa, l'unico problema è che ci vuole il filo. Adesso questo filo rigido non è che lo trovi facilmente. Io l'avevo fatto nella multipla, ho dovuto usare il cavo normale perché non avevo il rigido, perché col rigido rimane bello piazzato, se no bisogna essere in due, uno che gira, l'altro ti tiene e fare cosa. Mi metti un pezzo di scotch per tenerlo, di quel nastro elettricista, in modo che te lo tenga fermo. E poi, quando il tuo finito una passata di nastro, così non si sta. Ma per quello non c'è problema, posso andare una mano anch'io. Il problema è dove farlo, perché il mio già lo so che cerca il parcheggio, un casino. Sì, lo so. Ma io l'ho visto la prova, quello che mi ha impressionato quando ho fatto la prova del gas della cucina, tu devi vedere come cazzo ti cambia la fiamma, il colore della fiamma, due piatti e due piani di cottura identici alla stessa bombola, e tu vedi le fiamme diverse, a parte che una bella alta pulita, l'altra rimane un poco con quello rossiccio, cosa del genere, non muove, e poi te lo spiega fisicamente, ti fa vedere tutto il discorso, il disegnino, ti fa una grafica, una cosa del genere. E poi quello dell'acqua, tu vedi gli zampilli dell'acqua, della fontana, cioè del soffiare della doccia, con e senza quella roba lì. Mi sto preparando un impiantone per metterci il cibo nuovo, in officina mi sono fatto un bel piastrone da attaccare sopra il camper, cosa è già? Faccio per risparmio carburante. Tu con un'antenna non ho mai visto io di antenne così grande nel campo. Ma ti fatto, faccio la foto e ti mando la foto della piastra che ho fatto in officina. E poi mi dici cosa ne pensi. Guarda, io ho visto un camper come il tuo camper, un motorhome come il tuo, che viene spesso a Fiume Santo, di questo tedesco, non so se l'hai mai visto, simile al tuo, adesso non so se la macchina la guarda, dietro c'è il traliccio, questo qua telescopico motorizzato, e si mette le direzioni, c'è una direttiva, la piazza motorizzata, tu hai visto la cosa che ci ha messo nel camper, dietro in coda, questo pistone che sale, lo porterà a 5 metri di altezza, non lo so, e c'ha due antenne, una direttiva e un'altra verticale, e se ne va sempre di lì, lo trovo tanto volte d'estate. Tutto si può fare tutto, io ho capito anche come, si può fare tutto, adesso come inizia il tempo, cosa ci vuole per attaccare il Sikaflex, bisogna usare o sì, va bene anche il Sikaflex, c'è il poliuretanico, ma c'è il poliuretanico, quello della 3M che usiamo noi, penso che sia 3 milioni, che serve per incollare i parafanghi, lo danno come primo impianto, c'è di tutti i colori, se c'è il coso bianco, sopra tanto è bianco, te lo metti in bianco, ed è eccellente quello lì come incollaggio, è spettacolare, non mettere siliconi o cose del genere. Hola, eccomi! Chiamato. Questo è quello che stai dicendo tu. Me l'attacco sopra, c'ho una piastra 50x50 e poi ci porto la massa, perché mi sono affrontato, sono andato su a guardare come hanno fatto l'impianto lì in Tedeschia. C'è proprio la massa, il filo della massa che ha portato la piastra, c'è una piastra piccolina in ferro, capito? E poi c'è un filo di massa che arriva con la piastra. Poi c'è il filo dell'antenna normale, che attacca l'antenna normale. Scusate un attimo, ma che materiale hai fatto questa piazza? Che cos'è? Ferro zingato, acciaio inox o cos'è? Acciaio inox. Ah, meno male, sì, fatto bene, perché il ferro zingato lo sai cos'è? Che non è conduttivo, secondo com'è non ti fa conduzione. No, acciaio inox. E allora già va bene. Quanto hai detto? 50x50? Sì, 50x50, acciaio inox con 2 mm spessore. Taravaccia. Scusa un attimo, gli hai fatto per fissare l'antenna, come hai fatto? Ma magnetica la stai mettendo l'antenna? No, l'antenna normale, l'antenna che ho io già. perché la lanterna magnetica non attacca sull'acciaio inox, già lo sai. No, io l'antenna ce l'ho già, quella uso, quella che ho io. Cioè questo come piano di massa lo stai utilizzando tu. Scusa un attimo, Roberto. Vai a tu. Capa. E che antenna vai in andare un camper? Guarda, non so se tu hai visto il camper, non stiamo parlando del camper, stiamo parlando di motoromo, con le case tipo un pullman c'ha lui. E c'ha l'antenna sopra la cappotta, diciamo, perché non è a cappotta, è un pullman, infatti mi pare che sia 1,80 m, non lo so, quanto è alta l'oggetto con l'antenna. Fate un colpo, il camper sarà 3,5 m di altezza, e più c'è questo cavolo di antenna, infatti ho già detto bu. Già spara forte dal camper. Già lo so. Vabbè, se tu vedi l'impianto che c'ha coso, quanto si chiama, il padre di Riccardino c'ha quel fuoristrada, hai visto quel fuoristrada enorme che c'ha Riccardino il padre? E poi c'hanno la cellula che l'attacca dietro, e arriva a quasi 10 metri di lunghezza lui con la cellula, 9,80 m diventa tutto il mezzo, ed è 4 posti letto, tu vedi cosa c'ha dentro l'impianto quello lì, c'hanno due baracchini di quelli americani, bestie di baracchini, quelli grossi, tipo l'S9, cose così, tipo il co. E poi c'ha due antenne, no, forse tre ne ha di antenne collegate insieme. Il Poramari, già l'ho visto mi pare quel coso lì, quel fuoristrada grande. Ne avevano due, adesso uno l'hanno dato via, lo vedi sempre parcheggiato vicino dove lavora lui, non diciamo dove, ma già mi ha capito dove sta, quasi sempre, quasi tutti i giorni. Ci sono, deve vedere ancora un paio di antenne, ma poi lui dietro, c'aveva anche l'impianto motorizzato satellitare. Ah, ho capito, e già lo so quindi è parcheggiata questa macchina, non ti preoccupare. Se tu lo vedi con la cellula, io sono salito, sono entrato dentro, la cellula è enorme, una cosa, ma io non avevo mai visto così grande, nel carapotto si fila, sul cassone c'era un altro 1,5 m, 2 m fuori oltre a quello. Sono qua, Già lo so, già. Comunque già. Ma non l'ho più sentito, non ho più sentito nessuno, cavolo, di loro. Ma io mi sono visto con Riccardino tempo fa, quando avevo preso la patente, poco prima, non mi ricordo più o meno. Poi col padre era passato in ufficio, allora fa entrare. Vabbè, stava studiando, dice il padre, mi ha detto, fai entrare. Infatti, una di queste sere lo chiamo e così gli diamo di nuovo la voglia. Perché adesso è in prima superiore, prima l'anno scorso era nelle medie, era più semplice, adesso deve mettersi a studiare, deve stare un po' attento. Ok, Eugenio, rientrati. Sì, sono qua. Stavo dicendo, Eugenio, quindi questa piazza a te ti serve solo come piano di massa? Esatto. E cosa c'hai? Gli hai saldato dei bulloni? No, è bucata, no? È bucata al centro, che lì ci va l'antenna, e poi c'è un buchetto sul lato, dove lì ci avviterò il filo di massa. Ah, quindi gli hai fatto un foro a questa piazza in acciaio? Sì, per l'antenna, perché faccio l'antenna. C'ho già la Turbo 2001, però quella corta, non quella lunga. Ma tu ce n'avevi una lunga, cos'era quella che avevi prima sul tetto? Sul campo devo già piazzare sempre quella lunga, quella è una Midland, e niente, forse ci piazzo quella direttamente. Tagli l'antenna, infatti aggiunto, e quanto ci sei? Tu ci sei più di 5 metri d'altezza lì. È un bel lunga, voglio mettere la Turbo 2001, quella corta che ce l'ho, è già piazzata sulla piastra, e niente, devo incollare la piastra, però viene un lavoro fatto bene. Sì, fallo bene, mi raccomando, tutto che si è distribuito bene il mattice in uguale quantità, fallo con la cartuccia, cioè con la pistola del mattice, fallo, non mettere punti di più o punti di meno, perché sennò ti si solleva e non è come che non ne hai messo, deve essere bello uniforme il coso, se te lo disegni sopra la cappotta prima, in modo che poi quando lo devi appoggiare non stai a muovere a fare, li metti un peso, qualche cosa che te lo tenga appoggiato tutta la notte, lo lasci e vedi che tiene. Così faccio. Però viene un lavoro fatto bene. Fatto il filo di massa, poi lì c'è già, lo attacco, l'attacca la piastra, non faccio altro che avvitare la piastra e basta, intanto c'è già. Sì, lasciati qualche predisposizione, se hai la possibilità di mettere qualche bulloncino, cioè che si è saldato, facendo qualcosa, in modo che se devi mettere una massa aggiuntiva o cosa del genere, ce l'hai sempre a disposizione. No, ma figurati, se già va bene questa, figurati. Allora io poco prima di punti, andando a casa di cose, di come si chiama, di Pomponio, arrivavo 9, 9:10, così come quarantena lunga. Sì, no, io ti ascoltavo perfettamente. Qualcuno mi ha detto che ascoltavi a me, però gli altri non riuscivo a sentire. Sì, vabbè, ascoltavo a te, ascoltavo a Luca, sentivo a cosa, vabbè che stavo uscendo con. Che stava uscendo esageratamente forte, come si chiama? Vabbè, già ne ho capito. Non riuscivo a sentire a Claudio. Claudio intanto mi spariva. Ovviamente non era a favore, però avanti Antu. Cappa! E passa verso questa zona che ti accendo tutto lo smitter. Però se sentivo a Giulio, Giulio era il punto. Già un grido che intendi già. L'altro giorno stavo parlando, ero ottavo e mezzo ai palazzi e parlavo con Giulio tranquillamente. Era ottavo e mezzo ai palazzi e gli arrivavo dagli 8, 7, 9, capito? Già va bene, e quando mi trovo la piazza andrà ancora meglio. Sì, sicuramente. Adesso io magari stavo lavorando, non c'ero, ma sicuramente arrivavi anche qua bene. Sì, Antonio, sicuramente. Poi dico, sul camper, sulla capota non lo può mettere l'antenna, ma chi l'ha detto? Sta a fare il lavoro come deve essere fatto. Sì, mi sta attento non sia troppo lunga, se non ne lampi a che cosa. Uno è 80 forse con l'antenna, uno è 75 e 80, non me lo ricordo. Poco è secondo te? Non è poco perché il mio camper è alto. Tu ci avrai 3,40 m di campo, più dagli 1,70 m di antenna, tanto sei 4 metri, no quasi 5 metri c'è. Quasi 5 metri, sì. Tu a Santa Maria devi stare attento, al tuo sottopassaggio, vabbè adesso già l'hanno alzato. Non ve l'ho raccontato cosa mi era successo a me? No! Non te l'ho raccontato, Eugenio? No! Allora, anni fa c'avevo ancora il ritmo, già era appena ne ho patentato, stiamo parlando 85, 86, adesso più o meno quell'anno lì. Stavo cercando a Porto Tondo, tranquillo, con 5 amici miei, eravamo in 5 in macchina, non con 5, con altri 4 amici miei. All'altezza, c'è presente, dove c'è quello che c'ha la Fene, cos'è, via Sassari, con l'incrocio, cos'è, via delle Vigne, che c'è il distributore Agi qui a destra. La Fene Genovese. Di lì, ho camminato tranquillo, ne è uscito uno, un tipo anziano, probabilmente era distratto, non lo so, ha bruciato lo stop, ma ha pigliato in pieno, me ne ha sradicato la ruota della macchina e tutto quanto. Eravamo di lì a Porto Tondo, siccome la macchina non camminava, ho dovuto chiamare i carrattrezzi, altri l'hanno chiamato i carabinieri, che sono intervenuti i carabinieri, eccetera, eccetera. Tra l'altro lo conoscevo pure, era amico di mio padre, a me mi conosceva. Già aveva capito chi sto dicendo che vende il camper giù da te, così non diciamo nomi. E arriviamo, e poi facciamo quattro lanciare a Sassari, e ci ha caricato tutti e tre, tutti e cinque nel coso, dentro l'aritmo col carrattrezzi, all'altata la macchina col bilancino e le cinghie. Arriviamo all'altezza di Santa Maria, come arriviamo di lì si tocca la gru era appena sollevata, nei gaggi la gru sopra la macchina, tutto il bilancino, noi eravamo dentro, meno male che era un aritmo, una macchina un po' robusta, se no saremmo morti tutti schiacciati. Due vedi quanto si è fatta la macchina? L'assicurazione me l'ha ripagata, perché prima il ponte di Santa Maria, non so se l'hai conosciuto, il sottopassaggio era più basso e lui era con la gru un po' sollevata, perché per non schiacciare la capota gli ha messo il bilancino e c'era un po', quanto sarà stata, 1,5 metri di altezza rispetto alla capota della macchina. Come è arrivato di lì, noi eravamo al contrario, perché l'ha messa in retromarcia la macchina e noi eravamo dentro, abbiamo sentito questo rumore come quando ti cade una bomba sopra e ha schiacciato la capota della macchina. E ti posso dire, meno male era un aritmo, se ci trova con una panna ci ammazza tutti quanti dentro. E al tempo le facevano la Fiat, la faceva grossa la lamiera, già esistenti, se dovesse succedere una cosa adesso, così vogliono schiacciati, quelle macchine ragazzi non si vengono nulla. Se ti capita con un appunto, macchine tipo una Citroen, con le macchinette così, una Toyota, ti schiaccia dentro, perché ne è caduto tutto il coso. C'hai presente il bilancino, quello per sollevare, che voi lo usate nelle gru del porto? Quel bilancino lì grande, la lunghezza più grande quanto tutta la macchina, si è sbattuta la gru, è caduta la gru e il bilancino è in là. Fuori di acqua, allucinato. peccato, ma l'hanno fatto questa macchina. Si è affidato due assicurazioni, uno da Corolla e uno da Caracrisi. Sì, già lo so, poi l'abbiamo riparata, me la ma poi vabbè, poi l'ho venduta subito dopo, però l'abbiamo riparata, me ne hanno pagato due volte l'assicurazione. E poi va sulla bocchina, andale. Sì, sì, ci voleva la cappotta nuova, il parabretta, tutto è facciato. Comunque, come regola, mi sa che non vi doveva portare lui sopra. È già un grillo. Infatti lui ha detto che non c'era niente, nessuno dentro, che è successo caricandola. Certo, ti ha assunto la responsabilità. Era un po' spaventato lui. E così mi è successo ad Orgali, me lo stavo raccontando poco fa, l'anno scorso, non quest'estate, due estati fa, che mi si è rotto il camper, il cambio abbiamo fatto da Orgali a Sassari e lui ha detto sedetevi dentro, davanti può sedere in tre, però noi eravamo in quattro perché c'era mia figlia con l'amica, e ho detto no, rimango qua. Io poche volte mi sono cagato in macchina, ti devo dire, e quella volta mi sono cagato sotto, perché ho detto qua ci ammazziamo. Perché il caratterista era di quelli grossi per portare in pulma, dai, mezzi grossi, quelli enormi, però era stabilissimo con le sospensioni autolivellate, prima, non si muoveva da un millimetro. Lui tutte le curve che faceva, vedete, chi su camper, cioè una cosa dentro una barca, ha detto questo si stacca il camper e ci cadiamo nei burroni, siccome era tutta strada curva, ecco, e chi su camminando come un dannato, il mezzo lo teneva, però quello che c'era sopra non reagiva, tu vedi come si muoveva, e io gli dicevo piano, piano. E lui non se ne alla fine l'ho telefonato, a cammini piano, se no ci perdi in cammino. Guarda, ti sto dicendo, ci saremmo ammazzati, perché quelle strade erano tutti precipizi, si calavano, sta quella zona lì, non so se l'hai visto, l'Orgali per entrare Siniscola, che ci sono la strada vecchia, poi lui ha preso, prima di mettersi nella orientale sarda, ha fatto 30 km di curve, ma cazzo, io ti sto dicendo, ero cagato so. Vedevi, siccome il camper mio è molto oscilla un bene, non è di quelli, è un vecchio transito della guerra, allora, e per dire, ero cagato sotto. Come si chiama? Vado lui entra in sala. È bella quella strada, l'ho fatta, l'ho fatta. Il problema è quando incroci il pullman. Già lo so, ma quella zona già la conosco tutta bene, l'Ogliata, anche più avanti, ci vado spesso io, a me piace un bel quella zona, che è tranquilla, non c'è tanto traffico nel senso di gente, se vuoi trovare qualche spiaggetta la trovi, però sino a San Teodoro e dopo Calabrandinchi di lì, sembra che stia andando in Piazza d'Italia, sempre pieno di gente, non c'è una spiaggia, un buco per entrare, dopo Siniscola inizi invece a trovare qualcosa di buono, sino a Orosei è tutto pieno di gente. Non lo so, non trovo raccontare cosa è successo all'orientale sarda. Ci sono, l'hai visto che è tutto pieno, già lo sai che è tutto pieno di curve. C'era questa curva a gomito. Subito dopo, ci trovo una casa cantoniera, subito dopo la casa cantoniera c'è una curva a gomito. Io stavo camminando tranquillo con il camper che avevo prima, è uscito questo tedesco in contromano da questa curva a gomito, neanche lui sa come è riuscito a tenere il camper, un motorondo, vabbè. Io mi sono stretto tutto a destra, lui a quando ce l'ha fatta risaltare io ho raschiato tutta la fiancata del camper su guardrail. Non si è fermato, da tarbo cruco di merda, non si è fermato. Ma invece scusa tu, chissà perché ogni anno me ne è capitata una con il camper, ogni anno gli specchietti. L'ultima volta, due anni fa, stavo camminando, ma io ho visto la morte della persona, mi sono cagato sotto perché ero, siccome c'erano questi che c'hanno l'Harley Davidson, questi motociclisti, una greffa di motociclisti palamadesi, è successo qua, tutti quanti in fila, e li vedo tutti in fila, allora siccome dovevo fare l'inversione c'era una di quelle mostre, non mostre, di quelle feste che fanno i concerti e si sporcano tutti con gli inchiostri, non so se l'avete mai visto, comunque quelle feste di lì di musica, un po' di niente. E dovevo andare al posto, dovevo fare un'inversione, allora sono entrato nel ristorante, però ho visto tutta questa greppa di motociclisti, ho detto, questi sono pericolosi perché erano tutti sorpassando, corre. Allora da roba di 300-400 metri prima, rallentando, mettendo la freccia proprio a anticipare, tutto quanto, proprio per evitare che cacchio, ho detto, questi ci mettono a correre nel rettilineo e ne messo a giro a sinistra, ma sempre piano piano, attento, sento questo rumore. Boh, guarda lo specchietto, non vede nessuno, questo mi è entrato sotto la ruota, cagato proprio, guarda lo specchietto, non vedevo niente. Invece se l'ha sbattuta una donna anziana, ha fatto l'inversione a U, cioè l'inversione, un sorpasso dove non si poteva sorpassare, non so cosa era stato a capo a questa donna, meno male che mi ha preso bene, nel senso se no ci saremmo ammazzati tutti e due, si è sbattuta dietro la ruota di dietro, tu vedi quanto si ha fatto la macchina, il camper è sobbalzato, io ho detto, boh, io pensavo che ne avessi schiacciato qualche motociclista, perché ho sentito una botta fortissima, poi sono arrivati loro, i motociclisti, subito dopo e sono passati, mi sono cagato, detto, non che ne ha già ammazzato qualcuno, cioè nel senso, non per colpa mia, era questa signora qua. L'anno prima a Portocervo, di vicino a Portocervo, camminando, tranquillo, ne arriva questo con questo fuoristrada vicino a Porto Rotondo, ha detto che tu non vi basta, veloce, io mi sono buttato tutto a destra, ci siamo scontrati gli specchietti, il mio frantumato a 1000 pezzi, il suo era un Jeep, un Cherokee, non so cosa era, e 1000 pezzi, ossia che si è filmato. E anche a me mi hanno fatto saltare gli specchietti nel Laika. Con questo mi diverto perché ce li ho tipo, esistono tipo come il pullman, ce li ho alti come il pullman, quindi passo tranquillamente, non me ne affitti nulla, tanto le misure già ce li ho. E passo, ma l'altro era un problema perché avevo gli specchietti con i bracci lunghi, capito? E me l'hanno fatto saltare più di una volta. Due volte nella frettoia lì dove? Nel rettilineo di coso, nel rettilineo di Castel Sardo, prima di Castel Sardo, anche prima di Lugano, dove c'è il distributore della Quit, c'è una specie di frettoia che c'è al semaforo prima. Sì, sì, e poi un'altra volta, l'anno prima, lo specchietto, mi è successo di lì, cacchio, meno male che c'era il finestrino chiuso, ero con una mia amica lì seduta sul lato destro, passeggero, nella strada di Olbia, che ci sono tutti i cantieri, e c'erano quei pezzi di trafila piegati a U, li hai visti in alto, qualche imbecille l'ha piegato verso la strada, sono passato un'esplosione, si è fatto in 1000 pezzi lo specchietto e tutte le schegge del vetro, meno male c'era il finestrino sollevato, tu devi vedere come ha fatto il vetro, le schegge hanno tutto intaccato il cristallo, meno male che c'era il vetro sollevato, se ti prende a faccia quei pezzi dello specchietto ti frantumano. C'era mio cugino, mi ha detto che è in moto, uno è in moto, gli è capitato, le ha messo qualche bastardo di merda che gli gira apposta, gli è capitato nella lampada in moto, giù me non si ammazza, un amico suo, vai Antu. Ma tardo da niente sono, per carità, una parete cose, mettono quei pezzi di trafila rugginosa con tutte quelle strisce arancioni per delimitare quella specie di cosa in plastica per entrare nei cantieri per aprire, solo che quando incroci il camion ogni una futtinuta dici tu ti butti tutto a destra stando attento, siccome ci sono le strettuie lì non si possono passare, loro si pigliano pure la corsia tua, non adesso Mario, adesso è difficile perché è quasi tutta finita la strada, ma qualche anno fa c'erano delle strettuie, ci passavano giusti e loro non erano a lei, allora tutti i tiri tutta la parte, c'era questo cacchio di ferro proprio, mi ha fatto infrantumi lo specchietto e tutte le schegge del vetro hanno intaccato il cristallo dello sportello, e meno male c'era quello, se no avrei preso in faccia questa amica mia, l'aveva fatta a cieca. Ragazzi, io vi devo lasciare, ci sentiamo domani, ok? E a ciao Gio, stammi bene, anche io adesso stacco, dai, che ci sono già da un pochettino. E tu, altro già mangiato? Cappa, già un'ora che ho mangiato. Ciao, buonanotte a tutti, ciao, a domani. Ciao Gio, ci risentiamo. Ciao Gio, buonanotte, buon tutto, dai. Rimango qualche minuto adesso con Antonio a fare compagnia, però anche io adesso vado a coricarmi, magari mi guardo qualche pezzo di televisione. Via. E te la metti quando ci avevate, Antu, la motocarrozzella col coso, col baracchino, non ce l'aveva? Un periodo, poi non ce l'abbiamo messo più. Ma ricordo che tuo padre parlava tante volte, ci siamo sentiti. Sì, sì, ma il problema era che molte volte ero fermo, guarda, e quella che c'è della radiografia che me la rompe nel cazzo, dice che vedo con qualche segnale strano. Le radiografie, cioè? Disturbava. E cioè, ma quando eri fermo? È un rigo lì in via Diaz. Ah, tu parli da lì, no, io sto parlando, non avevo già dove siete adesso. No, non ne abbiamo mai avuto lì. Ah, io pensavo già, ce l'avevate già. Perché c'è un'antenna di lì, di chi è quell'antenna? No, scusa, lì, in via Venezia sto confondendo. No, non ne abbiamo noi a Parigi, no. Quella che c'è, c'è presente via Venezia per entrare nella Valle, non c'è un'antenna di lì all'ingresso? Già lo so, non lo so di chi è, no. Ma di lì un periodo vendevano bombole pure, Antu. Stai dicendo, no, quelli c'erano i 43 mega. Prima già ce l'aveva il Cipiccia. Adesso c'è il 43 mega. Ma ce li hanno ancora perché c'hanno frequenze dedicate a questi che portano le bombole. No, sono frequenze che gli hanno dedicato così. E se guardi in via Turati c'hanno la Mantova Turbo piazzata. Però mi sa che l'hanno accorciata l'anno perché per uscire in quelle frequenze lì io non so cosa cazzo l'hanno fatto. Sì, la deve accorciare, perché 43 mega di lunghezza dovrebbe essere, allora sono i 27, e più o meno la metà, per cui se sono 6 metri e passa, sarà sui 3,40 metri, 3,30 metri la lunghezza dell'antenna, se lavoro rimangono 5-8. Non so cosa l'hanno fatto, però prima ce l'avevano il baracchino, solo che qualcuno, quando ci rompeva le palle, qualcuno a mia conoscenza, gli attaccava il lineare, non capivano più niente. Dimmi una cosa, addirittura le trovate da Origo, ma non vi credo, è impossibile, come fate a disturbare? Sono tutte piombate le stanze dove ci sono le radiografie. Eppure lui me l'aveva detto, dice che gli entrava, come si dice, proprio vedeva delle cose, delle scariche strane. Ma magari è più probabile che vedesse quando era in moto, la moto cos'era, due tempi a miscela. Ma io quando trasmettevo, ti davo un disturbo, capito? Ma cosa c'aveva? Aiuto? Sì, che cosa vera? Ah, cacchio, se tu dici c'è qualcosa, un altro discorso. Infatti mi sembra strano, con un apparecchio normale, che sono molto, molto silenziosi, nel senso, non sono aperti di tutto, di spurie, di cose, di armoniche. Se poi ci attacchi qualcosa, magari è scacciavitato pure l'apparecchio, a quel punto ci posso credere. No, non è perché ha scacciavitato, no. È che erogava un po' di potenza. Sì. E l'antenna ricevente dove ce l'avevate, Antu? L'antenna ce l'avevi in moto e dall'altra parte nel negozio ci doveva essere un'antenna per ricevere. No, solo in moto era. Ma non vi serviva per comunicare tra di voi? Dice, mi porta una bombola in via Roma, mi che c'è ancora lì, passa a pigliarla in via Torino. No. Non abbiamo mai usato queste cose. Ah, era solo per divertimento a te, per compagnia allora. Non te lo ricordi che parlavo sempre. No, ma io pensavo che ci avevate anche la stazione base, come fanno quelli per dire della sorveglianza, le cose, dico mi vai a Predaniera, poi quando sei lì passa anche dall'altro via radio. No, cavolo, se non dovevamo scendere i canali di sotto, qualcosa dovevamo fare. Perché non è che possiamo dire i cognomi così, no? Vabbè, quello già è vero, ci vogliono le radio o altre frequenze dedicate o codificate. Cappa, cazzo, ti dibiate se dico nome e cognome e via di casa tua, ti accontenti? Sì, vabbè, quello è vero, infatti non ci avevo pensato. Beh, sì, tu, io me ne sto prendendo, sto qua andando, allontanando, andando non si dice. Dai, grazie del QSO, ci sentiamo eventualmente domani se coincide, o se no buon lavoro e buon tutto per domani. Ciao, ciao. Ciao, ci risentiamo. Thank you.